Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ben approdati, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nel momento in cui si chiude la giornata e quindi si ripercorre un po' all'indietro con le varie notizie, le cose principali e poi il racconto di vari personaggi, ospiti, di alcuni temi, di alcuni argomenti, di alcune storie in particolare. Oggi, per esempio, può essere il giorno, come possiamo dire, delle bocciature. Allora, la Consulta boccia il Porcellum e dice che è incostituzionale. Di questo parleremo in modo approfondito. Poi i coltivatori italiani bocciano le importazioni dal Brennero per difendersi appunto da questo arrivo di merci di bassa qualità spacciate come italiane. E poi Forza Italia boccia i 4 senatori a vita nominati da Napolitano, dicendo insomma non hanno i requisiti, non hanno i meriti giusti. Volendoci anche Berlusconi, che boccia alla presentazione del libro di Vespa agli italiani, dice non sanno votare. Insomma, una bocciatura generale. Poi su alcuni di questi temi torneremo, ma intanto vi racconto quali sono stati i fatti principali della giornata. E allora avete sentito, a proposito di legge elettorale, la Consulta ha bocciato il Porcellum, sono incostituzionali sia il premio di maggioranza che la mancanza delle preferenze. Berlusconi dice la Consulta è un organismo di sinistra. Forza Italia contro i senatori a vita, non hanno i requisiti, dicono dal partito, va quindi rinviata la convalida, Abbado rinuncia allo stipendio. Il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, in conferenza stampa con Enrico Letta, dice l'Italia porti avanti gli sforzi per la crescita. Protesta il Brennero, tir bloccati al valico contro i falsi cibi italiani, Confindustria dice no al protezionismo, sconcerta il comportamento della ministra De Girolamo. Metodo Stamina, il TAR accoglie ricorso e dà ragione a Vannoni, il ministero nomina un nuovo comitato. Prato, c'è stato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'incendio nella fabbrica cinese e oggi Consiglio Comunale straordinario. Per il calcio con la Coppa Italia, il Chievo ha battuto la Regina 4-1, dovrebbero essere ancora in campo forse Atalanta-Sassuolo dalle 19, adesso vediamo se arrivano i risultati. E alle 21, quindi in questi minuti, sta iniziando la partita Inter-Trapani. Partiamo quindi dalla bocciatura da parte della Consulta del Porcellum. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legge elettorale, appunto detta Porcellum, ha dichiarato illegittimo sia il premio di maggioranza senza soglia sia le liste bloccate. Le motivazioni di questa bocciatura verranno pubblicate nelle prossime settimane e adesso ci si chiede cosa succede. Allora ne parleremo tra poco con un noto costituzionalista e vedremo quali potrebbero essere le prospettive. E sono numerose naturalmente le reazioni che continuano a succedersi attraverso le agenzie alla decisione della Consulta. Di politica incapace ha parlato Vendola di Sel, mentre invoca il ritorno al proporzionale Fioroni del PD, e un ironico Rotondi di Forza Italia chiede di ripristinare anche l'immunità parlamentare. Duro Berlusconi, che alla presentazione del libro di Vespa è tornato a definire la Corte Costituzionale un organismo politico della sinistra. Un Berlusconi intervenuto su molti temi a partire dal presunto berlusconismo di Renzi. L'inizio di Renzi con le sue manifestazioni facevano vedere in lui una persona assolutamente moderata e si notava in ogni sua affermazione la provenienza sua, che era tra i giovani della Democrazia Cristiana. Berlusconi ha aggiunto ironicamente che la durata del governo Letta la deciderà Renzi ed è tornato anche sulla sua condanna definitiva. L'affidamento in prova ai servizi sociali è ridicolo, ha detto. Se ci sarà un minimo di saggezza dovrebbe arrivare per il periodo della condanna di 10 mesi una grazia, dice, motu proprio dal capo dello Stato, cioè senza richiesta. Infine un accenno al futuro leader di Forza Italia, dice, sarà scelto con le primarie. E c'è stata una movimentata seduta alla Camera oggi, che è stata quindi sospesa dopo che alcuni deputati 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo in aula. Nonostante i richiami all'ordine da parte della Presidente di turno Marina Sereni, alcuni deputati del Movimento 5 Stelle non si sono allontanati dai banchi. Allora la Presidente Sereni ha deciso la sospensione dei lavori. In aula si stava discutendo sulla ratifica dell'accordo tra Albania, Grecia e Italia sul progetto del gasdotto Trans-Adriatic Pipeline. Nel frattempo, in giunta delle elezioni, i senatori di Forza Italia, Casellati e Malan, hanno posto la questione sulla sussistenza dei requisiti previsti per la convalida dei 4 senatori a vita nominati da Giorgio Napolitano nell'agosto scorso, cioè Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Claudio Abbado. I due parlamentari hanno chiesto un rinvio della convalida di questi 4 senatori a vita per l'acquisizione della documentazione necessaria, perché a loro avviso i meriti di questi 4 non sono sufficienti. La Lega ha dichiarato che voterà contro la convalida e i parlamentari devono lavorare, cosa che questi 4 signori non fanno, ha detto la senatrice del Carroccio Erika Stefani. Intanto Claudio Abbado ha rinunciato allo stipendio da senatore a vita per devolverlo alla scuola di musica di Fiesole. E su questo potete, se volete, esprimere il vostro parere. Questi 4 senatori davvero non hanno i meriti per diventare senatori a vita. Potete fare i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che per distinguerla è Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666. E si torna a parlare di indulto. 2 mesi dopo il messaggio alle Camere, vi ricordate, il Capo dello Stato torna a spronare il Parlamento perché prenda una decisione contro il sovraffollamento delle celle. Si assume la responsabilità di dire se l'indulto è necessario o meno, scandisce Napolitano a conclusione di un dibattito in Senato proprio sulle carceri. Il Parlamento deve avere il senso di responsabilità necessario per dire, è in particolare il provvedimento di indulto necessario per ottemperare alla decisione della Corte di Strasburgo, oppure prendersi la responsabilità di considerarlo non necessario. E se il Presidente del Senato Grasso tuona contro le leggi cancerogene e dice che creano nuovi reati, la Guardasigilli, la Ministra della Giustizia Anna Maria Cancellieri, annuncia un nuovo decreto svuota carceri. Questo è veramente un drammatico problema che dobbiamo risolvere, o perlomeno portare a soluzione entro il prossimo maggio. E poi c'è la lunghezza dei processi, un altro fardello che ci portiamo dietro, con cui continuiamo a pagare sanzioni pesantissime. I provvedimenti che faremo tenderanno a abbreviare quanto possibile la lunghezza dei processi. E vi dicevo prima di questa protesta al Brennero, continuerà anche domani il presidio al Valico del Brennero con la protesta di allevatori e coltivatori della Coldiretti. Oggi gli agricoltori dell'associazione hanno bloccato mozzarelle provenienti dalla Germania e destinate alla Sicilia, latte proveniente dalla Polonia e destinato a Brescia, prosciutti tedeschi destinati a Modena. Domani la protesta, guidata dal presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo, proseguirà poi a Roma in piazza Montecitorio. Allora sentiamo proprio Moncalvo al microfono di Paolo Panceri. Continuano i controlli qui al Brennero insieme con le forze dell'ordine e saremo collegati in diretta a Montecitorio, dove insomma metteremo a disposizione di tutti i gruppi parlamentari i risultati della nostra battaglia e porteremo all'attenzione anche le proposte di portare a termine quel percorso di trasparenza che è iniziato con l'approvazione della legge 4/2011 sull'etichettatura, a cui mancano i decreti attuativi. Prima questione. Seconda questione, chiediamo che finalmente vengano resi disponibili i dati sulle importazioni. Ad oggi i dati ufficiali sulle importazioni sono segretati. Non è possibile che i consumatori e gli agricoltori non abbiano tutti gli strumenti per sapere che cosa entra nel nostro paese e soprattutto dove va, verso quali stabilimenti è diretta. Alla manifestazione al Brennero ha partecipato anche la ministra delle politiche agricole Nunzia De Girolamo. In merito, con una nota, Confindustria si è detta sconcertata di questa partecipazione, dice, per il comportamento del ministro, che ha dimostrato di non tenere in debita considerazione tutte le disposizioni europee che regolano l'originalità dei prodotti agroalimentari. E poi ci sono delle novità sul metodo Stamina. Il TAR del Lazio dà ragione a Davide Vannoni, fondatore del metodo Stamina, e sospende il decreto di nomina della commissione del Ministero della Salute che lo aveva bocciato. Metodo Stamina punto e a capo. Il TAR del Lazio dà ragione a Davide Vannoni, ideatore del metodo basato sull'utilizzo a fini terapeutici di cellule staminali, e boccia la commissione del Ministero della Salute che sul metodo aveva espresso parere negativo. Non sarebbe stata garantita l'obiettività e l'imparzialità del giudizio. Stamina Foundation contestava dinanzi al TAR la composizione della commissione che ha bocciato la sperimentazione, sostenendo che gli esperti non fossero stati imparziali e che i membri si fossero espressi contro il metodo prima ancora di essere nominati. È per questo che i giudici chiedono che ai lavori del comitato partecipino esperti, anche stranieri, o anche coloro che si sono espressi a favore del metodo. A questo punto verrà nominata una nuova commissione per un'altra valutazione sul protocollo, ma Vannoni chiede di più. Il ministro Lorenzin dice non se la può cavare con la creazione di un nuovo comitato, dovrebbe dimettersi. La notizia intanto riaccende le speranze di molti malati. Il vicepresidente di Movimento vite sospese Pietro Crisafulli. Una notizia meravigliosa che dà spazio e dà adesso una chance in più ai malati, a tantissimi malati che aspettano, che sperano, ecco, che sono, che soprattutto che possa svincolarsi quella lunga lista d'attesa all'ospedale di Brescia. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma. E poi ne parleremo di questo col vicepresidente tra poco della Fondazione Stamina. Adesso però trasferiamoci a Prato, lo sapete, c'è stata questa tragedia del rogo di un capannone in cui vivevano e lavoravano diversi cittadini cinesi, 7 sono morti. Oggi a Prato si è tenuta la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, aperta da un minuto di silenzio in ricordo appunto dei 7 lavoratori. E c'è per noi Ubaldo Cianciulli. Ciao Ubaldo. Ciao Roberto, buonasera. Quindi è stata giornata di lutto, c'è stato anche un consiglio comunale straordinario, si diceva, no? Che cosa tu hai potuto seguire, che cosa è stato deciso, cosa è stato detto? Sì, sì, sono a Prato praticamente da stamani, quando alle 12 c'è stato il minuto di silenzio in tutta la città. Mi trovavo davanti ai resti del macrolotto, c'erano un po' di cinesi che venivano probabilmente a dire una preghiera, a vedere un po' quello che era successo. C'erano anche diversi pratesi che erano lì un po' a commentare che quello che è successo alla ditta Teresa Moda poteva e può succedere, potrebbe succedere in qualsiasi altra ditta, quasi, dove si lavora in condizioni di quel tipo, dove si dorme nello stesso posto in cui si lavora e si mangia, e si va avanti in questo modo tenendo bambini, è stato raccontato, anche nelle lavatrici intiepidite come se fossero delle piccole incubatrici. Ci sono delle realtà veramente da terzo e quarto mondo. Poi c'è stato appunto il Consiglio Comunale straordinario a Palazzo Pretorio, iniziato poco dopo le 3:30, il minuto di silenzio, le campane del Palazzo Pretorio, ci sono stati gli interventi delle varie istituzioni, dal sindaco, al vicepresidente della provincia di Prato, è intervenuto il presidente della regione Toscana, il vescovo, il console cinese a Prato, che è qui la console da un anno. Un po' da tutti si è levata un'unica voce, cioè cerchiamo di far sì che questo drammatico episodio che ha visto la morte di 7 cinesi, di cui 6 irregolari, e soltanto una signora era regolare, e oggi tra l'altro alla manifestazione che c'è stata questa sera, una fiaccolata, la marcia silenziosa, era presente anche il marito della signora, il signor Lee, che era, insomma, ovviamente affranto per quello che era successo. Dicevo, un po' da tutte le voci in consiglio oggi parte questo messaggio, cercando di far sì che da questo episodio la comunità cinese cambi e cerchi di regolarizzarsi. E soprattutto un altro discorso che va fatto è che comunque alla fin fine, nella stragrande maggioranza dei casi, i capannoni sono affittati da italiani, da no, patesi. Questo senz'altro, infatti, però dicevano vari osservatori, insomma, che questi cittadini cinesi che vengono dalla Cina non si accorgono neanche di essere schiavi, perché al loro paese sono sfruttati ancora peggio, stanno ancora peggio, e ci sono comunque sotto inchiesta, mi pare, almeno 4 piccoli imprenditori cinesi, no? Per ora sono per cittadini questo cinesi. Rogo, sì, cioè, sono indagati 4 persone, la proprietaria del capannone, che in questo caso è una cinese, anche se deve essere ancora rintracciata, perché sembra sia all'estero. I gestori della ditta stessa sono indagati per omicidio colposo plurimo, disastro colposo, sfruttamento di una manodopera clandestina. Insomma, vari capi di accusa piuttosto gravi. E poi mi pare che ieri il ministro Giovannini dicesse che non ci sono le risorse economiche per fare ispezioni più adeguate. Comunque vedremo come procedono le indagini. Intanto grazie Ubaldo Cianciulli. Grazie, grazie a te per il collegamento. E adesso chiudiamo con il calcio, con la Coppa Italia. Il Chievo ha battuto la Regina 4-1, l'Atalanta ha battuto il Sassuolo 2-0. Adesso ci sono in campo Inter e Trapani, per il momento conduce l'Inter 1-0. Vedo già dei vostri messaggi su l'accusa di Forza Italia ai 4 senatori a vita di non meritare il loro titolo. Dice un ascoltatore: Rubbia è un premio Nobel, Abbadun al Fiere Italiano della Musica, Renzo Piano un grande architetto, se non hanno i requisiti loro chi li ha? I partiti dell'ignoranza certo non capiscono il valore della scienza e dell'arte. E poi Piano e Abbadun non hanno meriti, dice un altro ascoltatore, ma certo non hanno i titoli e ride, dice ne avrà chi li afferma. E poi invece Beppe scrive: sono i quattro dell'Oca Selvaggia ingaggiati per una missione senza ritorno. Lidia scrive che i meriti di Rubbia o in Company siano messi in dubbio da Malan e fuori dal mondo. Queste sono alcune delle vostre reazioni a questo, a questa appunto sollecitazione sui vostri pensieri rispetto ai quattro senatori messi un po' sotto accusa questa sera, in queste ore, da Forza Italia. Adesso però ci fermiamo, aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo con le varie storie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci, prima di addentrarci nel primo tema e con il primo ospite, vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi. A partire dalla legge elettorale, con la consulta che boccia il Porcellum, sono incostituzionali, dice, sia il premio di maggioranza che la mancanza delle preferenze. Berlusconi dice la consulta è un organismo di sinistra. Forza Italia contro i senatori a vita, non hanno i requisiti, dicono dal partito, va quindi rinviata la convalida. Abbado rinuncia intanto allo stipendio. E poi protesta, scusate, il Brennero, tir bloccati al valico contro i falsi cibi italiani. Confindustria dice no al protezionismo e si dice sconcertata del comportamento della ministra De Girolamo. Vedo Stamina, il TAR accoglie ricorso e dà ragione a Vannoni, il Ministero nomina un nuovo comitato e tra poco ne parleremo. E Prato, l'avete sentito, un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'incendio della fabbrica cinese. Oggi nella città c'è stato un consiglio comunale straordinario. Per quanto riguarda il calcio, con la Coppa Italia, il Chievo ha battuto la Regina 4-1 e poi l'Atalanta ha battuto il Sassuolo 2-0 e sono in campo Inter-Trapani, per il momento in vantaggio l'Inter per un gol. Bene, allora dovremmo avere il prossimo ospite, che è il costituzionalista Michele Ainis, per capire qualcosa di più di cosa accadrà adesso con il Porcellum, però ce l'avremo tra poco. Poi leggerò ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito dei quattro senatori. E ci dovrebbe essere invece adesso in collegamento prima Marino Andolina, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Andolina. Medico e vicepresidente di Stamina Foundation, quindi tra i fondatori del metodo Stamina, di cui Davide Vannoni è il creatore, fondatore e presidente. Ha sentito naturalmente la novità di oggi del TAR che ha bocciato il parere contrario al metodo Stamina, no? Nel senso che ha detto il Ministero della Salute deve nominare un'altra commissione imparziale, forse internazionale, adesso vedremo, per decidere se questo metodo è valido o no, se ci si può accedere oppure no. È una storia questa particolare, se la ricordano un po' tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, che si è consumata un po' tra le piazze e i tribunali, no? Legata appunto a questo metodo Stamina ideato da Davide Vannoni, che è basato sull'utilizzo, spiego, a fini terapeutici di cellule staminali prelevate dal midollo osseo. E ci sono state da una parte le richieste dei malati di accedere a questo metodo, le centinaia di ricorsi che ci sono stati in tal senso, dall'altra parte il recente stop, no, alla sperimentazione deciso dal Ministero della Salute. E adesso questa decisione del TAR. Quindi voi naturalmente siete contenti, immagino, Andolina. Diciamo che una buona giornata, mi aspetto anche giornate difficili, perché la guerra non è finita, è stata una bella vittoria ma non è finita, mi aspetto il peggio dai cattivi. In che senso? Cioè, pensa che ci sarà un'ulteriore bocciatura? No, quello no, ma ci sono altri modi per violare la legge, come è stato fatto in passato, per dichiarare che non ci sono risultati, vedremo, insomma. Io sono aperto alla fiducia, quindi spero che gli errori fatti non si ripetano, però qualche sospetto ce l'ho ancora, ecco. Io Andolina le farei sentire, siccome giorni fa c'è stata qui a Effetto Notte la senatrice a vita, ma prima di senatrice a vita, Elena Cattaneo, direttrice di Unistem, centro di ricerca sulle cellule staminali dell'Università degli Studi di Milano, fondato da lei stessa nel 2006, quello che ha detto a proposito del metodo Stamina. Come devo dire, come lei sa,

Senta, ma sulla questione del fatto che non è provato sull'efficacia effettiva, perché sono pochi alcuni mesi per dimostrare che un malato davvero ha dei benefici, perché si diceva come altre malattie è fluttuante, si va un po' giù, un po' su, quindi è difficile di... Proprio l'asma è una malattia con progressione lineare, mai fluttuante. E appunto, se uno fosse laureato in medicina, saprebbe che l'asma, la spinal muscle atrophy, è una malattia progressiva che ha diverse gravità a seconda dell'età di insorgenza. Chi nasce con la malattia, se l'ha nella prima settimana di vita, muore a 6 mesi. Chi, come Celeste, ce l'ha nel secondo mese, muore, se non ventilato a macchina, a 18 mesi, così via. Quindi c'è un asma per ogni paziente a seconda della gravità di quel tipo di variante genetica, però l'asma non può mai, mai, mai migliorare. È una malattia progressiva fino alla morte per paralisi respiratoria, quindi la parola fluttuante se l'è inventata la signora Cattaneo, e insomma sono parole che un farmacista non dovrebbe dire a un medico. Quindi Marino Andolina, se lei dovesse descrivere il metodo Stamina così a grandi linee per far capire alla gente e alle persone che ascoltano, come lo spiegherebbe sinteticamente? Sono staminali, a differenza di quello della Cattaneo, sono staminali adulte che, come dice l'Agenzia Europea del Farmaco, non sono mai pericolosi a differenza delle embrionali. Quindi sono staminali adulte prese dal midollo osseo, se potrebbero prendere anche dalla placenta, dalla parte solida della placenta o dal grasso addirittura, che noi coltiviamo più o meno come tutti, noi che facciamo tante cose geniali, con forse maggiore attenzione, con lavaggi più frequenti, purificazioni più frequenti, per un numero limitato di settimane, a differenza di altri che le coltivano 4-5 settimane, portandole molto vicine alla maturazione in osso, che per una terapia che deve curare il cervello è sconveniente. Quindi prima che diventino troppo vicine all'osso le tiriamo fuori dalla fiasca, e poi vengono divise in una serie di provettine crioconservate, e questa è una cosa che potrebbe fare qualsiasi stem cell factory autorizzata, diciamo, anche se le coltivano troppo, e con alcuni dettagli che considero leggermente teoricamente pericolosi. Andolina, mi scusi, dovrebbe averci raggiunto Davide Vannoni anche, visto che è il suo presidente, il fondatore della Stamina Foundation. Buonasera Vannoni. Buonasera. Buonasera. Ciao Davide. Sì, Davide Vannoni. Ciao Marino. Sì. Ha sentito naturalmente, di questo stiamo parlando, della decisione del TAR del Lazio di bocciare il parere del comitato di cui si era servito il Ministero della Salute per decidere se fosse un metodo accessibile ai malati oppure no, se potesse essere pericoloso. Una sua battuta su questo, Vannoni, che cosa pensa? Beh, io ho letto questa decisione. Sentenza del TAR, sì, mi ha colpito ovviamente molto favorevolmente, perché ha rimesso un po' in quadro alcune delle affermazioni un po' troppo affrettate che aveva fatto questo comitato scientifico, indicandone anche la non imparzialità che ci si aspetta da degli scienziati che devono fare una valutazione. E devo dirvi che io ho letto integralmente le ragioni della bocciatura, e sono le stesse cose che non sono particolarmente significative da un punto di vista della sicurezza del paziente o dell'efficacia, quanto piuttosto dell'adesione o meno a delle procedure adatte per un laboratorio farmaceutico o per un laboratorio di centro trapianti. Però diciamoci la verità, noi sono 2 anni che diciamo che la nostra metodica per centri trapianti e non per laboratori farmaceutici. Però Davide Vannoni, lei non ritiene che ci può... Allora, il TAR del Lazio ha accolto il suo ricorso, non è possibile che ci sia un altro ricorso contro il suo ricorso, secondo lei? Può darsi al Consiglio di Stato, anche perché questo ricorso vinto al TAR del Lazio apre tutta una serie di aspetti di risarcimento danni anche da parte dei pazienti che per esempio hanno perso i ricorsi chiedendo le cure compassionevoli presso i tribunali del lavoro, e hanno perso ricorsi proprio funzionali al fatto che il comitato scientifico aveva parlato di pericolosità e non efficacia della metodica. Quindi alcuni giudici giustamente, di fronte a un parere che pensavano non solo autorevole ma soprattutto imparziale, hanno bocciato le terapie a questi pazienti. Ecco, questi pazienti sono stati danneggiati da da queste valutazioni estemporanee del comitato. Vannoni, ma lei a cosa attribuisce? Aspetto sicuramente un ricorso al Consiglio di Stato. Lei che cosa attribuisce? Cosa attribuisce tutto questo scetticismo e soprattutto la bocciatura, possiamo dire, di una gran parte della comunità scientifica internazionale del suo metodo? Perché secondo lei succede questo? Ma senta, diciamoci la verità. Allora, io ho sentito un gruppo di scienziati italiani che hanno dato veramente contro, anche in maniera pregiudizievole, al metodo senza conoscerlo. Penso alla neosenatrice Cattaneo, penso a Paolo Bianco, che non conoscono la nostra metodica, però gli ha dato contro in tutti i modi. Dall'altra parte, diciamo che a livello internazionale non si sono espressi tanti scienziati, se ne sono espressi anche lì 4-5, e le ricordo che gli articoli, quelli che hanno chiamato articoli contro Stamina pubblicati su Nature, non erano degli articoli scientifici, ma degli editoriali scritti da una giornalista, non delle valutazioni scientifiche fatte da un gruppo di esperti. La stessa critica di Yamanaka sul fatto di non applicare terapie non sperimentate all'uomo, ma da un lato in contrasto con la legge delle cure compassionevoli, che non c'è solo in Italia, ma c'è anche a livello europeo, quindi al di fuori integralmente dalle sperimentazioni, e dall'altra parte comunque una bocciatura neanche sulla carta, perché Yamanaka, premio Nobel, non ha mai visionato il nostro metodo e non sa neanche che tipi di cellule usiamo. Quindi andrete quindi avanti, Vanoni. Ho letto da un'agenzia nel pomeriggio che la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di lei, Davide Vanoni, accusato di presunte pressioni esercitate su componenti della giunta del Consiglio regionale del Piemonte allo scopo di ottenere un finanziamento di 500.000 euro. Sì, in realtà questo nella carta del rinvio a giudizio che ho letto non c'è. Quello di cui mi si accusa è il fatto che noi abbiamo chiamato l'Associazione per la medicina rigenerativa, fondata nel 2007, l'abbiamo chiamata ONLUS, e solo a distanza di 8-9 mesi ci è arrivato il rifiuto di nominarla ONLUS, e poi il PM ha messo in dubbio il fatto che i casi descritti dai biologi russi che avevano portato in Italia fossero reali, però devo dire che quei casi sono tutti pubblicati, quindi a questo punto noi in tribunale produrremo gli articoli dove questi casi vengono descritti, e viene descritto sia il materiale Methods sia i case report che sono stati prodotti. Un'ultima domanda, Vanoni. Prego. Sì, un'ultima domanda. Lei si ritiene, con questo metodo in cui evidentemente crede, si ritiene uno scienziato, un benefattore? Lei agisce per amore dell'umanità o fa semplicemente il suo mestiere per guadagnare come fanno tutti? Ma guardi, allora, io sono uno scienziato, ma mi occupo di altro, come sa sono un professore associato confermato di tutt'altro settore, quindi non né un biologo né un medico. Il mio ruolo è di essere presidente di una fondazione, e la mia battaglia è una battaglia di principio, cioè io qua, se, visto che ritengo di avere in mano una metodica utile per poter aiutare tantissime persone che oggi sono senza speranza, io e nella mia natura la porto avanti a oltranza, indipendentemente da quello che mi costa a livello di danni di un'azienda che ho dovuto chiudere quando sono cominciate le prime inquisizioni della procura e così via. Per cui le dico, semplicemente non mi ritengo né un benefattore né uno sfruttatore di sofferenza altrui, mi ritengo solo una persona determinata, perché quando credo in una cosa la porto fino in fondo. Chiarissimo, io la ringrazio, Davide Vanoni. Allora, poi ci riaggiorneremo su quello che succederà. Grazie a lei, grazie a Marino Andolina. Grazie, grazie, buona serata. Adesso ci fermiamo perché c'è di mezzo la pubblicità, ci sono molti dei vostri messaggi che vorrei poi leggere. Parleremo tra poco della bocciatura del Porcello. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo con voi, Roberta Giordano. Prima di parlare della legge elettorale bocciata, di cosa succederà adesso, vi ricordo quali sono i fatti principali di oggi. La legge elettorale, per l'appunto, la consulta che boccia il Porcellum, sono incostituzionali sia il premio di maggioranza sia la mancanza delle preferenze. Forza Italia contro i senatori a vita, non hanno i requisiti, dicono dal partito, va quindi rinviata la convalida. E stanno arrivando molti dei vostri messaggi su questo. Protesta al Brennero, tir bloccati al valico contro i falsi cibi italiani. Confindustria dice no al protezionismo. Poi il metodo Stamina, ne abbiamo appena parlato. Il TAR accoglie ricorso e dà ragione a Vannoni. Il ministero nomina un nuovo comitato. E calcio con la Coppa Italia, il Chievo ha battuto la Regina 4-1, e poi Inter-Trapani, vediamo l'ultimo aggiornamento qual è per la Coppa Italia con Inter-Trapani, se li troviamo, 1-0. E ringrazio e saluto e ringrazio di essere qui Roberto Dalimonte, buonasera. Buonasera. Politologo che insegna sistema politico italiano alla LUISS di Roma e al quale chiederei di illuminarci su quanto adesso succederà dopo questa bocciatura che sembrava ieri doversi reiterare fino alla decisione, almeno fino a metà gennaio. Invece la Corte Costituzionale ha deciso oggi che il Porcellum è incostituzionale, soprattutto per quanto riguarda il premio di maggioranza e la mancanza delle preferenze, no, Dalimonte? Quindi da adesso in poi con cosa si voterà? Chi si metterà mano a questa legge elettorale? Che faremo? Che si farà? Io sono molto critico di questa decisione della Corte. E l'ho scritto per il giornale, per il Sole 24 Ore, il nostro giornale di domani. Non mi unisco al coro, quindi. Quindi non esulta lei di questo martirio del Porcellum? No, io no, assolutamente no. Ritengo che la Corte abbia preso una decisione grave e rischiosa per il Paese, perché ha di fatto reintrodotto un sistema proporzionale. Cioè il Mattarellum? No, ha reintrodotto un sistema proporzionale. Non la Corte aveva la possibilità di reintrodurre il Mattarellum, sì, e invece ha scelto la strada di reintrodurre un sistema proporzionale da prima Repubblica. Ora, con il livello di frammentazione che noi abbiamo in questo paese e col livello di disaffezione nella classe politica che noi abbiamo, questa decisione mette il paese in una grave difficoltà, perché ci condanna alla ingovernabilità. Questa è la mia posizione netta e chiara. Ora, io riconosco alla Corte, forse, che i giudici hanno scelto una strada di questo genere per, come dire, per mettere una spada di Damocle sulla testa della classe politica, cioè dire: adesso fate qualcosa, questa è una legge sbagliata, l'attuale legge elettorale, fate qualcosa. Ma quello di cui i giudici non si sono resi conto, perché sono giuristi e non politologi, è che hanno creato un nuovo status quo, hanno dato fiato a tutti i proporzionalisti dentro il Parlamento italiano, e lo vediamo dalle dichiarazioni di questi minuti, di queste ore. Per cui ora il nuovo status quo, cioè il nuovo sistema elettorale italiano introdotto dai giudici, è un sistema proporzionale che verrà difeso da tutti quelli che in Parlamento sono a favore della proporzionale. Però Dalimonte, perché lei dice che già praticamente viene reintrodotto il sistema proporzionale? Perché oggi la Consulta, almeno nelle agenzie che arrivavano, dice: resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali secondo le proprie scelte politiche. Certo, ma questo cosa significa? Significa che il Parlamento deve deliberare, ecco. Ma la Corte in realtà ha creato con la sua decisione un sistema proporzionale. Vorrei spiegare questo punto, cioè se il Parlamento non farà nulla, la Corte e neanche il Presidente Napolitano possono costringere il Parlamento a fare una legge elettorale. In questo momento l'Italia ha una nuova legge elettorale che è proporzionale, perché abolendo dichiarando illegittimo il premio di maggioranza, la Corte ha introdotto un sistema proporzionale. Poi ha detto al Parlamento: fate una legge elettorale, ma se il Parlamento non fa questa legge elettorale, noi andremo a votare con un sistema proporzionale, condannando il Paese all'ingovernabilità. E dico questo perché, ritorno alla questione, avendo introdotto un sistema proporzionale, la Corte ha creato un nuovo status quo, cioè oggi tutti coloro che non vogliono il maggioritario sanno che si può andare a votare la prossima volta con il sistema proporzionale e quindi difenderanno il sistema che la Corte ha introdotto. A meno che, professor Dalimonte, il Parlamento, che mi pare strano non l'ha fatto finora, quindi non metta mano a questa legge prima che si vada al voto. Però lei dice giova a molti, piace a molti questo, esatto, sistema proporzionale. Questo è il punto, perché facciamo i nomi, no, nel senso di partiti? Beh, lei guardi le dichiarazioni di queste ultime ore e le vedrà. Tutti entusiasti, dice. Sono molto entusiasti perché i proporzionalisti sono annidati dentro tutti i partiti. Alfano, Casini, dentro il PD e così via. Quindi aggiungo che le primarie di domenica diventano ancora più importanti, perché se da queste primarie Renzi viene fuori ammaccato, perché Renzi è rimasto il vero campione del bipolarismo, del maggioritario, se verrà fuori ammaccato, la voglia di proporzionale aumenterà ulteriormente. Quindi il rischio che la Corte ha creato, che si noi si possa tornare a votare con un sistema proporzionale, che, ripeto, condannerebbe il Paese all'ingovernabilità. Un'ultima cosa, professor Dalimonte. Grillo ha detto: adesso Mattarellum è subito al voto. Ha detto: i partiti, Letta, Napolitano, non hanno più nessuna legittimità, sono figli illegittimi della Repubblica. Si torni al Mattarellum, si sciolgano le Camere, si vada al voto, non ci sono alternative. Ma senta, lasciamo perdere Grillo. Ecco. Grillo ha difeso il Porcellum. Una volta voleva andare a votare con il Porcellum. I suoi senatori hanno introdotto in Senato un sistema elettorale proporzionale di tipo spagnolo. Adesso viene fuori lui che parla del ritorno a Mattarellum, ma insomma c'è un po' di incongruenza. Cioè, una follia, è tutto una confusione, una cosa che le dico, sono amareggiato e scoraggiato. Un'ultima cosa, proprio molto sinteticamente, professor Dalimonte, questo non significa invalidare le elezioni fatte col Porcellum, no, ormai cosa no, fatta? Questo lo deve chiedere ai giuristi, però le dico un'altra cosa, con questa decisione la Corte ha destabilizzato anche i sistemi di governo regionali, perché tutti i sistemi, questa è una cosa che non si dice, ma insomma chi valuta queste cose dovrebbe saperlo, tutti i sistemi elettorali e regionali sono tutti dei porcelli, tutti sono uguali al porcello nazionale. Quindi con questa decisione la Corte ha anche detto che tutti i sistemi elettorali regionali vanno rifatti. Ora, i sistemi elettorali regionali fino adesso hanno garantito un minimo di stabilità alle nostre regioni. Quindi mi domando, capisci? Per non parlare poi della questione del voto di preferenza. Di questo avremo modo, professore, mi perdoni, di questo avremo modo di parlare, perché mi dicono che adesso c'è la viabilità. Io la ringrazio tanto, professor Roberto Dalimonte, ce ne sarà ancora tanto da parlare di questo argomento, purtroppo. Grazie, professore. Prego, buonasera. Grazie tanto, buona serata. E prima di lasciarci brevemente, volevo dare spazio anche ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Note, a proposito dei senatori a vita criticati da Forza Italia. Massimo dice: sicuramente basta sanguisughe funzionali agli interessi del Savoiardo, intenderà Napolitano. Francesca dice: cosa si intende per alti meriti? Non sono abbastanza collusi o corrotti? Domenico: i parlamentari di Forza Italia quali altri meriti hanno avuto per essere nominati? È bene imparare a rispettare la Costituzione. Astrid scrive: dopo la notizia di oggi sono gli unici legittimi i senatori a vita. Samuel: personalmente ritengo ogni senatore a vita indegno del proprio ruolo, se si considera che non sono stati eletti sono stati eletti da una carica che a sua volta non è stata eletta dal popolo. Indro scrive: nessun senatore a vita, né di destra né di sinistra. E poi c'è Paolino, dice: cosa dovrebbe fare di più Rubbia oltre a vincere il premio Nobel per la fisica? Maurizio: è tutta una farsa, se non sbaglio sono stati fatti dal non mio dice Presidente della Repubblica Italiana per avere 4 voti in più dalla sinistra al Senato. E poi Elena: perché non lanciamo un'offensiva contro la disoccupazione? Perché non lanciano, dice, un'offensiva contro la disoccupazione, il lavoro nero, la mancanza di 1 milione di nuovi posti di lavoro? Non ho parole. E Andrea: No, però un condannato per frode fiscale in via definitiva ha sicuramente tutti i requisiti e meriti per essere senatore della Repubblica. Dice: a dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete sentito di questa protesta oggi al Brennero, della mobilitazione della Coldiretti, una battaglia di Natale, l'hanno definita, per difendere da importazioni di bassa qualità spacciate come italiane. Hanno bloccato gli agricoltori dell'associazione mozzarelle provenienti dalla Germania destinate alla Sicilia, latte proveniente dalla Polonia destinato a Brescia, prosciutti tedeschi destinati a Modena. Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, cosa ne pensa di questa vicenda? Fare di tutto in Italia, quindi anche queste manifestazioni possono dare un contributo per far capire che il nostro Made in Italy, che ha una straordinaria notorietà e possibilità di crescita, ha bisogno di essere difeso, e quindi sono manifestazioni che ci aiutano a dare maggiore forza al nostro. Però non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia è un grande paese trasformatore, perché è un paese che ha bisogno di queste materie prime, nel senso che noi importiamo il 40% del latte di cui abbiamo bisogno, il 50% della carne. Presidente, la sentiamo malissimo. Ecco, mi sentite adesso? Sì, io sono fermo. Sì, c'è qualche problema col suo cellulare. Il cellulare a volte anche stando fermi non si capisce perché. Prego. Quindi dicevo, no. paese trasformatore, un grande paese trasformatore, che ha bisogno di tutte materie prime. Noi abbiamo bisogno del 40% del latte di cui consumiamo, del latte alimentare. Il latte prodotto in Italia largamente va utilizzato in formaggi, per cui il latte alimentare è molto importato. Siamo un paese di 60 milioni di abitanti. Quindi lei dice dobbiamo importare, terra. Però dobbiamo importare. Non quindi. Possiamo certamente chiuderci in un'autarchia e bloccare le frontiere, perché non avremo poi da mangiare per tutti. L'importante però, Presidente, è che se un prosciutto viene fatto a Modena ma con carne di maiale che viene da un altro paese, lo si dica nell'etichetta. Bisogna almeno capire se un prosciutto che poi viene entrato in Italia si trasforma, e dobbiamo combatterle. L'Europa da questo punto di vista sta facendo molto, pensiamo alle ultime novità. Presidente, io direi, siccome domani c'è ancora manifestazione sotto Montecitorio, ci riaggiorniamo domani, perché sento che ha molti problemi, mi dice Fabio Cantadore la parte tecnica, che è un grosso problema adesso sentirci bene. Ci sentiamo domani allora. Va bene, molto volentieri, grazie. Grazie, mi dispiace, a domani. E saluto Alberto Orioli, ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti. Vice direttore del Sole 24 Ore, col quale vorrei parlare e di cuneo fiscale, perché pare sia arrivati i fondi per questo benedetto cuneo, ma anche di un vostro specie di scoop, di come lo si può chiamare, questo rating sulle riforme non fatte ancora. Ma insomma è quel lavoro che noi facciamo metodicamente tutti i mesi, dove raccontiamo che cosa viene attuato e cosa no delle riforme che vengono poi approvate in Parlamento. Ci sarà domani sul Sole 24 Ore, no? Dai vari governi. Domani sì, faremo l'aggiornamento sui pacchetti del governo Monti e del governo Letta sommati insieme. C'è la grande sorpresa che sono da attuare ancora 465 decreti. Ancora del governo Monti, diversi. Enorme, sì. C'è una grossa eredità ancora del Salva Italia, del Cresci Italia, del pacchetto semplificazioni. Quindi insomma queste riforme molto, troppo spesso, ahimè, restano sulla carta. Quindi annunciate, uno pensa queste cose si attueranno, invece non, di molte ancora non se ne fa nulla. Di molte ancora se ne fa poco, perché appunto sono provvedimenti cornice che hanno bisogno di una fase regolamentare di legislazione di secondo grado, diciamo così, che è molto lenta e molto di là da venire. Quindi se domani volete avere la misura di tutte queste riforme annunciate e non attuate, sul Sole 24 Ore. Di cuneo fiscale invece che si dirà? Cuneo fiscale, diciamo che effettivamente in commissione è stato dato il via libera alla risoluzione che vincola dal 2014 i risparmi che vengono dalla spending review, ma con una formula un po' ambigua ancora, perché parliamo dei risparmi aggiuntivi, quindi è una quota un po' da capire bene alla fine quanto si tradurrà effettivamente in denaro sonante. Lo ricordiamo cos'è il cuneo fiscale, no? La differenza tra quanto i datori di lavoro versano in busta paga ai lavoratori e quanto poi invece è il guadagno effettivo, i soldi sonanti, insomma, che un lavoratore. Esatto, purtroppo è la distanza tra due tristissimi record, il record di più alto costo del lavoro tra i paesi OCSE e il record di una delle più basse retribuzioni nette che percepisce il lavoratore. Paradosso inaccettabile. No, assolutamente, bisogna fare qualcosa, perché quello che grava su imprese e lavoratori in termini fiscali e parafiscali e contributivi è assolutamente fuori da ogni registro normale, diciamo così. Quindi bisogna tornare ad avere un paese normale anche su questi parametri. Grazie Alberto Orioli, domani sul Sole 24 Ore tutte queste cose poi le ritrovate. Ciao Alberto. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Leggo ancora moltissimi messaggi vostri. Vedo che incredibilmente la questione, la vicenda della legge elettorale vi coinvolge moltissimo, anche se si può pensare a volte che le persone si sentano distanti da queste cose e possano averne fin troppo, fin sopra i capelli. Invece ce ne sono molti, anche se non sono riuscita a leggerli tutti. Comunque vi ringrazio di tutta questa partecipazione. E poi ancora sui senatori a vita, qualcuno dice no, i senatori a vita e i parlamentari devono essere tutti democraticamente eletti. E poi Angela dice: il più bel regalo di Natale è la decisione della Consulta sull'incostituzionalità della sciagurata legge elettorale, anche se il professor Dalimonte non era molto d'accordo, lo leggerete anche lui domani su Sole 24 Ore.